Gli italiani sono sempre stati collezionisti in numero superiore a quelli degli altri paesi, in quanto c'è un naturale interesse per quanto riguarda tutte le arti. Dico per cui noi abbiamo sempre avuto il privilegio di avere una quantità di persone interessate all'arte molto superiore di quanto possono essere negli altri paesi europei. Noi però abbiamo, diciamo, il problema che abbiamo regole e leggi differenti da quelle degli altri paesi europei, per cui nel settore dell'arte ci sono delle problematiche in Italia che non esistono negli altri paesi. Questo può alla lunga scoraggiare, diciamo, un collezionismo che per quanto appassionato possa non accettare certe limitazioni e certe problematiche. Comunque vediamo che nelle nostre mostre, insomma anche a moda antiquaria, l'interesse non è mai mancato. C'è il pericolo che in questo momento si tenda un po' a criminalizzare tutto quanto possa essere lusso e scoraggiare, diciamo, anche persone che hanno dei redditi dichiarati molto alti a farsi notare. Questo non aiuta e francamente non si capisce perché chi voglia attuare una politica fiscale rigorosa, e su questo nessuno può essere contrario, lo manifesti in maniera così intimidatoria da poter frenare l'economia.